Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Nessuna evidenza di omicidio. L'iraniano trovato sulla grande viabilità triestina si sarebbe tolto la vita. Aveva 55 anni, secondo un certificato era affetto da sindrome depressiva. Travolto da un'auto a San Giovanni al Natisone, pedone gravissimo, ma era senza documenti, indagini sull'identità. Minori stranieri non accompagnati nelle strutture, pochi educatori e comunque dopo i corsi i ragazzi se ne vanno in altri paesi. Il caso del Civiform di Cividale. L'assessore Bini ancora nel mirino delle opposizioni sull'ipotesi di incompatibilità, un nuovo match a inizio ottobre. La Lima Corporate di San Daniele è ceduta a un fondo statunitense, rassicurazioni sul futuro del nuovo stabilimento. Presentata l'edizione numero 70 di Casa Moderna, sabato il via. Formazione e orientamento. All'Università di Udine si apre una serie di incontri con i dirigenti scolastici delle superiori. Il rito della transumanza a Meduno, la tradizione diventa attrazione turistica. Barcolana 55, temi sociali e donne protagoniste, presentato il programma della manifestazione che culminerà l'8 ottobre con la Coppa d'autunno. Martedì 26 settembre, sono le 7:19 minuti, 30 secondi. Buongiorno da Giampaolo Mauro e Livia Liberatore. Subito uno sguardo alla situazione del tempo, come di consueto. Abbiamo cielo sereno, poco nuvoloso sul Friuli Venezia Giulia. Il dettaglio delle temperature registrate alle 6. Partiamo da Trieste, dove ci sono 20 gradi e mezzo, soffia ancora bora a 40 km orari, il mare mosso con temperatura di 24 gradi. A Gorizia 18 gradi, a Udine 15, a Pordenone 14, nell'area montana Tolmezzo 9, a Tarvisio 12 gradi, a Sappada 6,5, sul Piancavallo 11,5, a Forni di Sopra 10, sullo Zoncolan 11,5, sull'Ussari 7 gradi. Tornando sulla costa, Grado 20,5, a Lignano 18, temperatura del mare in entrambe le località 22 gradi. Le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia per oggi: cielo in genere sereno, poco nuvoloso, sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora moderata, più sostenuta a Trieste. In pianura nel pomeriggio temperature estive, al mattino nel Tarvisiano possibile nuvolosità che in giornata comunque si dissolverà. È già risolto questa volta il caso di quello che sembrava un altro suicidio impossibile. L'uomo trovato domenica appeso a un guardrail sulla grande viabilità triestina, un iraniano di 55 anni, si sarebbe tolto la vita. Tra i fogli che gli sono stati trovati in una tasca anche un certificato che attesta una sindrome ansiosa depressiva. Nella sua permanenza a Trieste l'uomo aveva incontrato uno dei medici volontari dell'associazione umanitaria DONC, che ha confermato la circostanza agli inquirenti. Ora la procura attende ulteriori conferme dall'autopsia. Nessun segno di tortura o di violenza, neanche tagli o bruciature, ma soltanto lesioni post-mortem fisiologiche. Si tratta presumibilmente quindi di un suicidio, anche se il procuratore Antonio De Nicolo lo dice chiaramente in una nota. Qualsiasi ipotesi è prematura. Il comunicato ufficiale diramato dalla procura però dice anche tanto altro. Innanzitutto dà indicazioni sulla probabile identità dell'uomo, trovato morto domenica mattina appeso a una balaustra della strada sopraelevata di Trieste, con il corpo rivolto verso la ferrovia, difficilmente individuabile. Alcuni fogli in diverse lingue trovati negli abiti fanno ragionevolmente pensare si tratti di un iraniano di 55 anni regolarmente presente sul territorio europeo ma senza tetto in città. Tra questi documenti è stata rinvenuta una prescrizione di una visita psichiatrica a causa di una conclamata sindrome depressiva. L'identità sarà però confermata soltanto da investigazioni condotte tramite i canali di cooperazione internazionale. Nella nota si dice inoltre chiaramente che, pur non escludendo alcune ipotesi, non vi sono finora elementi emersi che potrebbero indicare un decesso dovuto all'opera di terzi. Tradotto, niente suggerisce si tratti di un omicidio. In attesa dell'autopsia disposta dalla PM Maddalena Chergia, le deduzioni arrivano dalla prima relazione cadaverica della medica legale. Il corpo si trovava lì da almeno 36-48 ore ed è da quel momento, la notte tra venerdì e sabato, che si cercheranno eventuali immagini delle telecamere di sorveglianza. L'uomo aveva una benda ricavata da una camicia a maniche corte che copriva buona parte del volto, lasciando tuttavia scoperto il capo. Le mani erano legate invece da una camicia a maniche lunghe, consentendo comunque un'apertura di circa 30 cm tra i palmi delle mani, quindi non particolarmente strette. I piedi invece erano legati tra loro con del nastro adesivo, tratto da un rotolo abbandonato nei pressi. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Un uomo di circa 40 anni è stato ricoverato all'ospedale di Udine in gravi condizioni dopo essere stato investito nel tardo pomeriggio di ieri a San Giovanni al Natisone, lungo la regionale 56, all'altezza della rotonda che porta alla frazione di Bolzano. Il pedone non aveva con sé documenti che ne permettessero l'immediata identificazione da parte dei carabinieri di Palmanova intervenuti sul posto. Grave a Udine anche un polacco di 54 anni atterrato malamente al termine di una discesa con il parapendio, ha riportato lesioni alle gambe e alla testa. È accaduto ad Ampezzo, nell'area degli impianti sportivi, dove l'uomo è sceso dopo essersi lanciato con un compagno dal passo Pura. Ha perso il controllo del parapendio a circa 5 metri dal suolo, impattando con violenza. I consiglieri regionali della sesta commissione hanno visitato il centro Civiform di Cividale, che ospita un centinaio di minori non accompagnati, non solo stranieri. Tra i nodi la carenza di educatori e la difficoltà di trattenere i ragazzi dopo la fine del percorso di istruzione. Cosa fanno? Dove vanno i minori stranieri non accompagnati una volta usciti dalle comunità di accoglienza? Nessuno lo sa e nessuno monitora se i ragazzi, che seguono percorsi di alfabetizzazione, formazione e inserimento lavorativo, spendano poi, sul territorio che è investito su di loro, le competenze acquisite. Nella maggior parte dei casi il loro viaggio prosegue verso altri paesi, come la Germania, che li valorizza. Si tratta di una delle lacune del sistema d'accoglienza evidenziate da Chiara Franceschini, direttrice di Civiform, durante la visita dei consiglieri regionali della sesta commissione alla struttura di Cividale del Friuli, ente di formazione accreditato dalla regione che risponde alle esigenze dei comuni di presa in carico dei minori. Un centinaio a Cividale, struttura al completo anche per l'arrivo, novità degli ultimi mesi, di minori non solo dalla rotta balcanica ma anche da altre parti d'Italia. Di passaggio in Friuli Venezia Giulia vengono rintracciati sul territorio regionale. Per loro la struttura, definita un'eccellenza dai consiglieri, predispone piani formativi individualizzati, impresa non facile soprattutto quando 17enni si fermano per esempio solamente un anno. Un problema è la carenza di educatori professionali. A Opicina, Civiform è stata costretta a chiudere una delle 4 microcomunità da 12 posti per mancanza di personale. La visita è stata convocata dal presidente della commissione, Roberto Novelli, anche per affrontare il tema legato al controllo sugli ospiti quando si trovano all'esterno. La struttura di Cividale implementerà a sue spese attività di portierato serale e notturno. Sottolineata infine la necessità di accelerare gli accertamenti sulla reale età dei ragazzi accolti. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Lutto nazionale oggi in occasione dei funerali di Stato del presidente emerito Giorgio Napolitano, morto venerdì a 98 anni. Il rito laico si svolgerà questa mattina a Roma, nell'aula della Camera, comincerà alle 11.30 per la durata di un'ora e mezza. La cerimonia sarà seguita in diretta su questa rete dalle 11 dal GR1. Non andranno dunque in onda le edizioni regionali meridiane dei giornali radio regionali, appunto, compresa quella del Friuli Venezia Giulia, alle 12.30. La politica in consiglio regionale, prima seduta d'aula dopo la pausa estiva, all'ordine del giorno la discussione sulla proposta di bilancio consolidato della regione per l'esercizio finanziario 2022 e il question time. I lavori si apriranno alle 10. Torna in primo piano la questione dell'incompatibilità dell'assessore regionale Bini, sostenuta dalle opposizioni, le quali in una conferenza stampa hanno annunciato nuove iniziative. L'opposizione in Consiglio regionale torna all'attacco dell'assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Bini per il suo ruolo di maggiore azionista di maggioranza e di dirigente della società Euron Promos, giudicato da PD, Movimento 5 Stelle, Patto per l'Autonomia, Cittadini e Gruppo Misto incompatibile con la sua carica. La scorsa primavera la mozione di sfiducia nei suoi confronti era stata bocciata dall'Aula, ma nel corso della conferenza stampa è stato ribadito che resta in piedi un'interrogazione alla quale la Giunta regionale dovrà dare una risposta il prossimo 5 ottobre. I gruppi di opposizione hanno fatto una richiesta di accesso agli atti sugli appalti in corso e quelli terminati della società di cui Bini detiene oltre il 40% delle quote, oltre che esserne un dipendente stipendiato. Massimo Morettuzzo, capogruppo in Consiglio regionale di Patto per l'Autonomia, e Riccardo Laterza, consigliere comunale di Adesso Trieste, hanno dichiarato di aver ricevuto una lettera di diffida da parte degli avvocati dell'assessore Bini. Non solo una questione di conflitto di interesse, hanno hanno voluto sottolineare i gruppi di opposizione, ma anche di tutela dei lavoratori. Il Comune di Trieste ha esternalizzato la gestione del personale della risiera alla società di Bini, con un salario un po' più pesante per i lavoratori, ma giudicato comunque non dignitoso. Nessun commento da parte dell'assessore Bini. Trieste, Elisabetta Zaccolo, TGR Friuli Venezia Giulia. Da un fondo di investimenti svedese a uno statunitense passa di mano Lima Corporate, azienda specializzata nella realizzazione di protesi ortopediche con sede a San Daniele del Friuli, 3 stabilimenti in Italia e 25 filiali. Ad acquisirla è Enovis, società di tecnologia medica quotata alla borsa di New York, forte di 5.000 dipendenti che lavorano in 12 stabilimenti di diversi paesi. Il portafoglio prodotti delle due società, annuncia una nota, consentirà entrambe di potenziarsi e a Lima in particolare di migliorare i conti e accelerare il completamento del nuovo sito produttivo di San Daniele. Nel 2022 Lima ha sfiorato i 250 milioni di fatturato. L'operazione di acquisizione da parte di Enovis dovrebbe venir completata nei primi mesi del 2024. Entro fine anno le regioni dovranno pubblicare i singoli bandi inerenti il decreto macchinari previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Friuli Venezia Giulia può contare su una dotazione di circa 8 milioni di euro con cui gli agricoltori potranno sostituire i veicoli agricoli inquinanti con mezzi a zero emissioni e acquistare attrezzatura per l'agricoltura di precisione con un limite di spesa pari a 70.000 euro. Entro il 2026 15.000 beneficiari dovranno ricevere il contributo come indicato dall'Unione Europea. Priorità alla sostituzione dei mezzi marcianti e funzionanti, in particolare immatricolati prima del 1996, suggerisce all'assessore regionale Zannier la Federazione dei rivenditori di macchine agricole di Confcommercio. Vanno tolti, spiega l'associazione, dalle strade e dai campi trattori privi dei dispositivi di sicurezza più basilari come cinture e roll bar. Ogni anno, a causa di rovesciamenti di trattori, si registrano in Italia almeno 120 decessi. 150 espositori con 300 marchi parteciperanno all'edizione numero 70 di Casa Moderna dal 30 settembre all'8 ottobre alla Fiera di Udine. La rassegna, dedicata alla presentazione delle soluzioni per la casa più innovative, avrà un focus particolare sulla sostenibilità e il risparmio energetico. In programma anche convegni, concerti, mostre e percorsi sulla storia dell'abitare. Il pubblico potrà accedere dal lunedì al venerdì a ingresso gratuito, mentre il sabato e la domenica si potranno visitare gli stand a 3 euro con registrazione online sul sito promocasamoderna.it. Parliamo di nuovo di scuola e formazione, ma stavolta dalla prospettiva dei detenuti. È doppiamente impegnativo studiare dietro le sbarre. Sentiamo allora le storie emerse al Coroneo di Trieste, dove ieri sono stati conferiti diplomi di licenza media e certificazioni linguistiche. L'istruzione in carcere è un investimento sociale, è un'opportunità per i detenuti che facilita l'inserimento socio-lavorativo e che diminuisce la possibilità di recidiva, ma è anche un investimento nella sicurezza di tutti i cittadini. Nella casa circondariale di Trieste sono stati conseguiti 10 diplomi di terza media e una ventina di certificazioni di alfabetizzazione. Istruzione, ma anche formazione professionale e le altre attività educative sono percorsi sui quali il Coroneo punta molto, nella consapevolezza che sia però fondamentale il coinvolgimento del mondo dell'associazionismo e del tessuto economico. Il direttore Graziano Puia. Noi lo chiamiamo terzo settore, ma comunque l'associazionismo, quindi è importantissimo perché è, come sempre non mi stanco mai di ripetere, è la città che entra dentro e quindi se si crea quell'osmosi poi si pone il ponte, si crea, come dire, lo step successivo per l'integrazione, che è l'obiettivo di tutti. Alla cerimonia sono stati invitati anche i rappresentanti delle istituzioni, ai quali è stata ribadita l'importanza della rete, del lavoro di gruppo e il contributo dei volontari per realizzare progetti nonostante la carenza degli spazi, del personale, degli strumenti e dei fondi. Il CPA, il Centro per l'Istruzione degli Adulti, ad esempio, lavora senza un personale docente carcerario, con insegnanti impiegati anche in altre realtà educative e che spesso non hanno la formazione specifica per farlo. Sono circa 160 i detenuti interessati alle attività, di cui solo 30 riescono a concludere i percorsi. Emilia Colella, docente del CPA. Ovviamente non ci richiedono specificamente corsi di alfabetizzazione o di titoli di primo livello, ma chiederebbero anche il proseguo di un diploma e poi soprattutto il CPA come Centro Provinciale Istruzione Adulti dovrebbe attuare quella che è un'offerta formativa ampia, più disparata, volta alla riqualificazione proprio delle persone e quindi ad agire sulle competenze pregresse e magari a introdurne nuove. Trieste, Vaciutti, GR Friuli Venezia Giulia. L'Università di Udine organizza alcuni incontri con i dirigenti di scuole superiori di Udine, Gorizia e Pordenone per progettare insieme il programma di orientamento accademico e di sostegno alla scelta del percorso di studi. Tre gli incontri previsti oggi a Udine alle 14.30 nella Biblioteca Scientifica del Polo dei Rizzi, domani a Pordenone nel campus universitario di Via Prasecco e giovedì a Gorizia nell'Aula Magna del Polo Santa Chiara. A tenere gli incontri sarà la delegata dell'Ateneo per i servizi di orientamento e tutorato, Laura Rizzi. L'obiettivo di tutti e tre gli incontri è quello di descrivere il programma di attività di orientamento formativo, gli eventi e tutte le azioni che intendiamo mettere nel programma generale di orientamento e tutorato dell'Ateneo di Udine per l'anno scolastico 23-24. Con un obiettivo secondario che è quello di iniziare una coprogettazione con le scuole. Quali sono queste azioni? Partendo dagli eventi di orientamento informativo e quindi lo Student Day o l'Open Day sia a Udine nel periodo di marzo, sia nelle sedi staccate, quindi Pordenone e Gorizia, e quest'anno aggiungeremo anche Cemona. Oltre a questi macro eventi, a cui si aggiunge poi la scuola orientamenti estiva, quando apriamo le immatricolazioni, ci sono dei percorsi che quest'anno chiameremo moduli di orientamento, che si distingueranno in disciplinare o generale. I moduli di orientamento disciplinare durante l'anno scolastico sono dei percorsi di 15 ore o meno con attività formative, quindi proposti dai nostri docenti. Potranno avere anche un carattere più generale, quindi accogliere anche attività di orientamento informativo. Durante il periodo estivo ci saranno invece le summer school con contenuto disciplinare a cui i ragazzi si iscriveranno singolarmente e quindi non tramite le scuole. Un aggiornamento di cronache di 22 persone indagate dalla Procura della Repubblica di Pordenone, bilancio di un'operazione in cui sono impegnati circa 100 carabinieri nei confronti della comunità Sikh. L'operazione è scattata in seguito alla maxi rissa avvenuta la scorsa settimana all'interno della stessa comunità Sikh a Pasian di Prata. I carabinieri del comando provinciale di Pordenone hanno avviato una serie di perquisizioni personali e domiciliari notificando i provvedimenti della magistratura e le persone indagate per il reato di rissa aggravata. A 6 persone sono stati anche notificati altrettanti avvisi del questore di Pordenone che contengono alcune prescrizioni. Ora parliamo della Giornata Mondiale del Cuore che si terrà il 29 settembre e in occasione della quale la Fondazione Onda organizza da oggi a lunedì prossimo una settimana dedicata alla prevenzione delle malattie cardiovascolari, principale causa di morte in Italia, in particolare all'infarto cardiaco e alle patologie valvolari. Dopo la menopausa le donne vengono colpite più degli uomini dalle patologie cardiovascolari e per questo all'ospedale di Pordenone, San Vito al Tagliamento e in quelli di Trieste, Gorizia e Monfalcone si terranno visite rivolte soprattutto alle donne. Ulteriori informazioni si trovano sui siti internet e ai recapiti telefonici delle strutture di cardiologia dell'azienda sanitaria Giuliano Isontina e di quella del Friuli Occidentale. Oltre 80 istituti comprensivi parteciperanno alla nuova edizione del progetto Movimento in 3S, promozione della salute attraverso lo sport, sviluppato e sostenuto dal Comitato regionale del CONI insieme alla Regione. Negli ultimi anni il progetto ha coinvolto una media di 25.000 bambini, promuovendo sani stili di vita come mezzo di contrasto alla sedentarietà, al sovrappeso e all'obesità, soprattutto in età pediatrica. Quest'anno inizierà il 1 ottobre e gli istituti aderenti studenti dovranno prevedere 2 ore di attività motoria alla settimana per ogni classe coinvolta. Negli ultimi anni tra i partecipanti si è riscontrato che la prevalenza di bambini sovrappeso è diminuita dal 18% al 16% nelle femmine e dal 18% al 15% nei maschi. Diminuita di 2 punti anche la percentuale degli obesi tra i maschi dall'8% al 6%, tra le femmine dal 7% al 5%. La pagina della cultura è arrivato a Trieste, lo scettro appartenuto all'imperatrice Carlotta del Messico, acquisito dalla Fondazione CR Trieste per 120.000 euro in un'asta nel Principato di Monaco. Sarà presentato oggi in un'anteprima alla stampa e prossimamente sarà esposto nel castello di Miramare, al quale sarà conferito incomodato. Lo scettro era stato ricevuto in dono dall'imperatrice dal Consiglio Municipale di San Juan de Rio nel 1864 a Miramare. Sarà conservato anche il documento che illustra questa donazione. È un gioiello d'oro a 22 carati, decorato in filigrane da fregi di fiori e foglie, adornato da diamanti, rubini e smeraldi. Un documentario che illustra il legame tra Pierpaolo Pasolini e padre David Maria Turoldo sarà proiettato alle 20.30 al Cinema Zero di Pordenone. Promosso dall'ente Friuli nel Mondo e prodotto dalla bergamasca Officina della Comunicazione, ricostruisce con parole e immagini l'amicizia tra le due personalità, accomunate dalle salde radici friulane, ma non solo, come ci spiega Piero Colussi, studioso di Pasolini, che stasera introdurrà il documentario. Erano due poeti. Padre David Maria Turoldo fin da giovane scrive e pubblica delle poesie, ovviamente lo stesso dicasi per Pasolini. L'altro dato che li accomuna è sempre stato quello di essere delle figure scomode. David Maria Turoldo è scomodo dentro la chiesa dei suoi tempi e sappiamo tutti come fu mandato via dall'Italia perché la sua figura era troppo, come dire, non era allineata, ecco, prima a Nuova Delfia, poi andrà negli Stati Uniti, in Canada, in Sudafrica e tornerà in Italia solo all'inizio degli anni 60. Pasolini subisce, se in maniera diversa, uno stesso percorso. Anche lui deve abbandonare il Friuli nel 1950 dopo lo scandalo di Ramuscello e tutta la vita sarà, come dire, un poeta, un regista, uno scrittore, un polemista scomodo per le sue critiche alla società e che ben conosciamo e che negli ultimi anni hanno creato attorno a lui un clima veramente esasperato che in qualche modo poi si è concluso tragicamente su quel campetto di calcio di Ostia la notte fra l'uno e il 2 di novembre del 1975. Il rapporto fra loro invece era di grande amicizia e di reciproca stima, così dice il padre David Maria Turoldo. Lo troviamo ad esempio nella recensione che Pasolini scrive nel 62 quando esce il film di David Maria Turoldo, Gli Ultimi, dove si parla di assoluta severità estetica. Per parte sua padre Davide sarà colui che è chiamato all'orazione funebre nei funerali a Casarsa. A 100 anni La coscienza di Zeno, uno dei grandi classici della nostra letteratura, capolavoro di Italo Svevo, e con un saggio dal titolo La funzione S, Riccardo Cepak, da 20 anni curatore del Museo Sveviano di Trieste, propone un'indagine sulla macchina narrativa congegnata dallo scrittore, puntando a rivelarne i meccanismi più segreti. Il volume sarà presentato alle 18 alla libreria Minerva. Interverranno, oltre all'autore, Diego Marani e Fulvio Senardi. La musica, la rassegna note del Timavo, propone stasera nella chiesa di San Giovanni in Tuba l'incontro con un eccellente solista e compositore, il contrabbassista Daniele Roccato. Insegna al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma e spesso improvvisa con danzatori, attori, scrittori, disegnatori. Il suo concerto solo comincerà alle 21. La 31esima edizione dell'École des Maîtres, corso internazionale di perfezionamento teatrale, fa tappe in regione. Questa sera a Villa Manin di Passariano sarà presentata al pubblico l'opera Frutto del lavoro, durato settimane, dei 16 allievi provenienti da Italia, Belgio, Francia e Portogallo, sul testo di Sogno di una notte di mezz'estate di William Shakespeare. La scuola è un corso itinerante organizzato da 7 partner europei, tra cui il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, capofila del progetto europeo. Appuntamento alle 19, l'ingresso è libero. Le mandrie scendono dall'alpeggio alla fine dell'estate. Si chiama transumanza ed è un rito antico che oggi è diventato anche attrazione turistica. La raccontiamo da Meduno. Anche quest'anno a Meduno è andata in scena la transumanza, che rievoca la tradizione millenaria della discesa a valle degli animali dopo la stagione estiva in quota. La sindaca di Meduno, Marina Crovatto. Noi vogliamo ricordare quello che è stato il nostro territorio, cosa si faceva negli anni trascorsi e nello stesso tempo per promuovere il nostro territorio, per invogliare la gente a venire a conoscere, le nostre tradizioni. La mandria è partita da Val di Giumint, seguita dai tanti curiosi accorsi a Meduno, ha attraversato le vie del paese per arrivare infine in località Sottomonte, dove i volontari hanno allestito un momento conviviale. Avevamo una piccola stalla anche noi, quando ero bambino, di 10 capi. E all'epoca era diverso, perché con 10 capi si poteva vivere tranquillamente. Tanti anni fa si lo faceva, sì, tutti lo portavano, tutti avevano le mucche nella montagna e venivano giù. Le portava anche mio padre il giorno prima della Madonna. L'evento, che intende ricordare alle nuove generazioni le storiche tradizioni del territorio, è stato un successo di pubblico che ha visto arrivare a Meduno anche turisti da fuori regione. Ci piace questa cosa, coinvolgiamo un po' le scuole. Per ricordare le vecchie tradizioni. Ci sono gli animali e dopo facciamo festa. Mi emoziona che ci sono le mucche, che camminiamo insieme a loro. Le mucche, che è il mio secondo animale preferito. Una vera cosa bellissima è questa transumanza. Meduno, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. 7.44 la pagina dello Sport Calcio. Andrea Sottil non è in discussione, nonostante i soli 3 punti e un'unica rete segnata dall'Udinese nelle prime 5 partite di campionato. Al tecnico non vengono imputate colpe particolari, anche la sconfitta con la Fiorentina arrivata dopo numerose occasioni sprecate in maniera clamorosa. Comunque vada, la trasferta di Napoli domani sera arbitra Manganiello di Pinerolo, con il quale l'Udinese non ha mai vinto. Il tecnico sarà certamente alla guida della squadra anche nelle gare con Genoa ed Empoli. Intanto però una partenza così negativa non si registrava dalla stagione 2010-2011, con Guidolin in panchina, quando i friulani cominciarono addirittura con 4 sconfitte consecutive. Al termine arrivarono quarti, conquistando l'accesso ai preliminari di Champions League. Ancora da dire a proposito dell'Udinese, della multa comminata dalla Lega Calcio per i cori e i fischi arrivati durante la partita contro la Fiorentina, durante il minuto di raccoglimento in onore della scomparsa del presidente emerito napolitano. Ora il pattinaggio artistico a rotelle. Il monfalconese Geraldo Altieri De Grassi si è confermato per la 3ª volta consecutiva campione mondiale nella specialità coppie danza categoria senior, in coppia con la bolognese Roberta Sasso. Il risultato è stato ottenuto in Colombia, dove la manifestazione iridata si è appena conclusa i Bagué. Vela c'era anche Francesca Klapcic, recente vincitrice della Ocean Race, alla presentazione della prossima barcolana nella sede delle Generali. Il calendario delle manifestazioni collaterali si aprirà venerdì a Trieste. Impegno sociale e vele rosa tra i fili conduttori. E per la grande regata dell'8 ottobre ci sono già più di 1000 iscrizioni. Una barcolana inclusiva delle disabilità, che punta sul rispetto ambientale e sul ruolo delle donne nello sport. E gli appassionati di vela da tutto il mondo abbracciano il Golfo di Trieste, stabilendo già adesso un record. Per la prima volta le iscrizioni superano quota 1000, con 2 settimane di anticipo, quando domenica 8 ottobre suonerà il via della regata più grande del mondo. E la rete di decine di associazioni che sostengono barcolana quest'anno danno vita a 250 eventi collaterali. Mitja Jaluz, presidente della società velica di Barcola e Grignano. L'atmosfera che si respira è un po' come quella del tempo meteorologico oggi a Trieste, giornata splendida, bora, barcolana che parte con il vento in poppa, più di 1000 iscritti e una voglia di esserci, di tornare a partecipare alla barcolana forse più inclusiva di sempre. Tanta attenzione al parasailing, tanto coinvolgimento delle società veliche della regione e una proiezione internazionale. Tornerà Wendy Smith, la vincitrice della scorsa edizione. Testimonial poi Francesca Klapcic, 35enne velista triestina che ha vinto la Ocean Race, il Gran Premio della Vela. Nessuno in Italia era riuscito prima di lei a vincere questa regata intorno al mondo. Andrea Sironi, presidente di Generali. Per noi è un evento davvero molto importante, lo accompagniamo e lo sosteniamo da oltre 40 anni e credo che sia importante enfatizzare anche il trofeo Women in Sailing che abbiamo promosso da alcuni anni e che per noi è molto importante come simbolo della diversità, dell'inclusione che noi portiamo avanti sia all'interno del gruppo Generale in tante altre occasioni. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. E oggi Francesca Klapcic si racconterà insieme ad altri atleti e progettisti di spicco della vela nel primo incontro che la società organizzatrice, la Pietas Iulia, ha organizzato prima del trofeo Bernetti di domenica prossima, autentico prologo della Barcolana. Professione vela alle 18 nella sede di Sistiana, moderato dall'olimpionica Giovanna Micole, con la partecipazione di Michele Paoletti, Andrea Bussani, Nicolas Starz, Francesco Taccani e molti altri anche collegati da remoto. Vediamo i giornali di oggi, cominciamo dal Messaggero del Friuli che apre con le nuove regole sui migranti. La giunta regionale stanzia 4 milioni di euro, previste iniziative per contrastare la radicalizzazione e contributi a scuole e università per l'integrazione. Nella fotonotizia, un distributore di benzina cala ancora lo sconto carburanti in regione, da ottobre ulteriore riduzione di un centesimo per verde e gasolio. Nella politica, le parole della nuova segretaria regionale del PD, Caterina Conti: il Partito Democratico è un partito unito, lavorerò insieme a Lenarduzzi, il candidato sconfitto. Si parla poi di scuola, 54 istituti della regione scrivono le linee guida per l'uso dell'intelligenza artificiale, unico progetto in Italia è coordinato dal Liceo Classico Stellini. L'apertura delle pagine di Udine è dedicata alla sanità, test prenatali e lotta ai tumori, diagnosi non invasive e più certe. A disposizione dell'Istituto di Genetica Medica, la prima strumentazione pubblica NIPT in regione. Dall'edizione di Pordenone vediamo le pagine locali. Si parla di trasporti, ampliato il servizio navette, più possibilità per gli studenti. Nella cronaca, batterie rubate ai monopattini, oltre 10 furti a segno in centro. Il giornale torna poi sul caso del bimbo ucciso da un ordigno venerdì scorso a Vivaro. Non era un residuato bellico, si sarebbe trattato di una granata non risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Siamo al Piccolo, che dedica il titolo di apertura e le prime pagine al caso dell'iraniano che si è tolto la vita sulla grande viabilità triestina. Niente prove di omicidio, la procura dice: trovato un certificato medico, l'uomo soffriva di sindrome depressiva. In evidenza anche la presentazione della Barcolana 55, la Barcolana delle donne, titola il quotidiano, che nella cronaca cittadina torna anche sulla questione dello stadio. Nel dibattito interviene Paolo Polidori, sindaco di Muggia ma anche segretario provinciale della Lega, che dice no all'ipotesi formulata da Di Piazza, Triestina a Rocco e non al Grezza. Dunque sempre più questione politica. Domani, nel frattempo, un nuovo sopralluogo per valutare le condizioni del prato del Rocco. Novità nel governo, per così dire, della diocesi triestina. Il vescovo Trevisi nomina Don Sergio Frausin delegato alla cultura e ai giovani. Succede a Don Malnati. E ancora a Opicina bloccati i carotaggi per la cabinovia, senza i permessi. Dall'edizione di Gorizia, prime nubi su Go 2025, via il direttore a Nova Gorizia e il sindaco Ziberna ora chiede garanzie all'altra parte della cordata. A Monfalcone in primo piano le concessioni balneari. Per Marina Iulia i bandi usciranno a gennaio. Infine l'aeroporto di Ronchi, avvertenza sul lavoro flessibile, parte la protesta ma i sindacati sono spaccati. L'intelligenza artificiale in cattedra è il titolo di apertura del Gazzettino di Pordenone, che racconta il progetto di 54 scuole della regione al lavoro per scrivere le regole sull'utilizzo di ChatGPT in classe. Nella fotonotizia salta il progetto del Park in Piazza del Popolo. Chi paga i lavori già fatti, scrive il giornale, che riporta le parole della consigliera Dem Pirotta, che ha presentato un'interrogazione sul tema al sindaco. Anche sul Gazzettino si parla poi del caso di Vivaro. Caro Gabriele, forse ucciso da una granata. Nella cronaca da Pasiano, ultimatum della questura ai SIC dopo la maxi rissa della scorsa settimana, basta tensioni e violenze. Il capitolo trasporti locali, i genitori degli studenti di Pordenone attaccano l'ATAP e minacciano una class action. Pochi mezzi, ragazzi schiacciati come sardine e orari sbagliati. Dall'edizione di Udine si parla della presentazione di Casa Moderna, tanti espositori per l'edizione numero 70. Nella cronaca, malore sul furgone, muore in ospedale. Il 56enne di origine serba si è sentito male dentro il mezzo da lavoro. Nello sport, l'Udinese e Bosele, una luce nel buio bianconero. 7:52 minuti, un'informazione che riguarda gli spettacoli. Parte oggi la prevendita dei biglietti del Galà del Musical dedicato al centenario Disney, in scena al Politeama Rossetti di Trieste il 5 novembre prossimo alle 18. Prodotto dall'Associazione Internazionale dell'Operetta Friuli Venezia Giulia, il concerto metterà in campo le arie dai musical Disney, dal tema del film Pinocchio, che poi diventò la sigla di apertura di ogni produzione disneyana, i brani tratti da Il Re Leone, La Sirenetta, Frozen, Mary Poppins e molti altri. In scena 5 cantanti, un'ampia band musicale e il corpo di ballo della scuola Stage Lab. Ricordiamo in chiusura che oggi è lutto nazionale in occasione dei funerali di Stato del presidente emerito Giorgio Napolitano, morto venerdì a 98 anni. Il rito laico nell'aula della Camera comincerà alle 11:30 e sarà seguito in diretta su questa rete dal GR1 dalle 11 fino circa alle 13. Non andranno pertanto in onda i programmi radiofonici regionali di questa mattina, né il GR regionale delle 12:30. L'edizione successiva sarà trasmessa alle 15. È tutto per questa edizione, è stata realizzata da Livia Liberatore e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Eugenio Giuffrida e Vassia Krismancic, ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. Rimanete in ascolto, fra pochissimo ci sono le informazioni su traffico e viabilità regionali. A tutti voi grazie per l'attenzione, buona mattinata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.